Nel 1964, appena diventato figlio di Dio per una reale e sincera fede in Cristo Gesù, si scatenò in me un profondo e insaziabile desiderio di leggere la parola di Dio, la quale si manifestò un vero vulcano di rivelazioni di ogni genere. Contemporaneamente sentivo il desiderio di comunicare le rivelazioni ricevute a tutti i credenti, ma avevo grossi ostacoli, ero timido e balbuziente. Facendo parte di una piccolissima comunità, i due conduttori mi esortavano comunque a parlare perché notavano in me una certa conoscenza biblica, trovandomi in certe circostanze a essere l'unico di dover spiegare correttamente la parola di Dio. Questo stato di cose mi costrinse a esercitare un ministero che assolutamente non ero disposto a svolgere. Il mio rapporto con la parola di Dio scritta è sempre stato di cuore sincero e di profonda ricerca per comprendere ciò che leggevo. Con passare degli anni ero invitato a predicare in tante e differenti comunità il Vangelo che comprendevo sempre più chiaramente e, dopo mezzo secolo, osservando il passato, mi sono reso conto che Dio avesse stabilito per me una vita vissuta in conformità al mio messaggio, dove quest'ultimo scaturisse da ciò che mi veniva rivelato, nelle diverse circostanze via via sperimentate. Ero da poco sposato e, dopo una giornata di lavoro, ero immerso nella lettura della parola di Dio, quando ad un tratto un brano della scrittura, il passo era il seguente. Così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Deuteronomio 8:3. Conoscevo l'interpretazione generale del testo, cioè che noi abbiamo bisogno non solo del cibo, ma anche della parola di Dio. Ma Dio sta dicendo al popolo di Israele che essi vivevano non solo perché mangiavano, ma perché lui aveva decretato che vivessero. Io vivo perché Dio ha stabilito così per me. Una verità rivelata al mio spirito, che mi elettrizzava, e subito avevo il desiderio di comunicarla alla comunità alla quale appartenevo. Mi chiesero di predicare e decisi quale domenica, e il giorno stabilito giunse. La domenica mattina partì con la macchina per caricare, come di consueto, un gruppo di ragazzi e portarli in sala per frequentare la scuola domenicale, ma, poiché era nevicato, nell'affrontare una curva persi il controllo della macchina. Nel tentativo di evitare due alberi, ignorando che nel loro mezzo si trovasse un palo di ferro, vi sbattei violentemente contro. Con la testa ruppi il vetro. Rimasi un poco stordito, ma il mio pensiero era teso a capire come poter tornare a casa. Un uomo si avvicinò e mi chiese se avevo bisogno di un passaggio. Tornai a casa, comunicai l'accaduto a Lidia e poco dopo ci recammo a piedi alla sala, anche perché dovevo predicare. L'incontro con la comunità fu formale, con i consueti saluti e abbracci, e non dicemmo nulla. Quando andai sul pulpito lessi il brano della scrittura e annunciai, cari fratelli e sorelle, se noi siamo in vita, è perché ci mettiamo il nostro impegno mangiando, bevendo e curandoci. Ma non sono i nostri soli sforzi a tenerci in vita, è la volontà di Dio a decretarlo. Questa verità l'ho realizzata in modo particolare questa mattina, poi spiegai l'accaduto. Vidi tutte le facce trasalire. Molte donne si voltarono verso Lidia per vedere che espressione avesse, ma l'immensa serenità di Dio era sui nostri volti. Ambedue eravamo convinti dell'amorosa sovranità di Dio. Dovevo andare a predicare a Reggio Emilia e scelsi il tema «I miracoli come veicoli imperfetti della rivelazione di Dio». Mi alzai presto e feci colazione, come di consueto. Tutto ad un tratto mi venne un singhiozzo inconsueto, così forte, che perfino mia moglie rimase sorpresa del rumore che facevo. Non ero preoccupato, ma mi chiedevo come potevo predicare con quel problema. Avrei avuto 40 minuti di macchina e mi aspettavo di migliorare. Arrivai a Reggio senza nessun risultato, salutando i fratelli come potevo. Iniziò la riunione, si cantarono vari inni, mentre io non riuscivo a cantare una strofa senza singhiozzo, quindi il fratello incaricato di guidare la riunione mi chiese di predicare. Mi alzai con un forte singhiozzo, mi incamminai verso il pulpito ancora con il singhiozzo, chiedendomi come avrei potuto parlare in quel modo. Come mi misi dietro al microfono, il singhiozzo sparì. Iniziai il mio discorso dicendo che avrei parlato dei miracoli, che io ci credevo e che ancora oggi Dio li compie. Stavo insegnando ai ragazzi le ricchezze della vita cristiana. Avevo messo enfasi sul fatto che lo Spirito Santo c'era stato dato, non solo perché diventassimo figli di Dio, ma anche perché conoscessimo le cose che Dio ci ha donato. Tra le innumerevoli ricchezze che possiede il cristiano, vi è la forza, non tanto la forza fisica impiegata dai greci per lottare fra di loro, ma la forza divina per compiere la volontà di Dio. Infatti, in genere i figli di Dio non sono uomini o donne possenti, ma persone normali, se non indebolite dal servizio cristiano, che traggono maggior forza quando sono deboli. Pensavo di fare un incontro con i ragazzi, ma poiché l'argomento era sentito, ne feci due. Anzi tre, perché proprio dopo il secondo incontro mi venne un ictus, che mi provocò una disartria, cioè la difficoltà di parlare. Il mio corpo rimase totalmente sano, ma il mio parlare fu penalizzato. Da quel giorno confidai molto di più in Cristo per parlare, perché la mia debolezza era aumentata, ma ho trovato la forza di servire Cristo così com'ero. Dio mi ha reso più forte, proprio mentre ero più debole, e ho compreso maggiormente ciò che Dio ha detto a Paolo: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Così, la potenza di Dio è su tutti i suoi figli, ma è portata a compimento, cioè è completa, nella più totale debolezza. Questi sono alcuni episodi, non sostanzialmente differenti da tanti altri sperimentati da molti predicatori del Vangelo, affinché chi predica il Vangelo non lo faccia superficialmente, ma le parole rispecchino un vissuto, per dare agli ascoltatori la sapienza di Dio. Molto probabilmente, se la Chiesa di Cristo non è edificata e istruita adeguatamente perché chi insegna o predica il Vangelo compie tale compito religiosamente, formalmente, senza un vissuto personale che accompagni le parole. Le parole chiave del cristianesimo, fede, speranza, amore, grazia, servizio, comunione, pazienza, se non sono vissute, non producono nulla in chi le pronuncia e ancora meno in chi le ascolta. Arrivati al XXI secolo, la conoscenza tramite i computer è grandemente aumentata. Ormai le varie dottrine del cristianesimo sono state sviscerate. Parliamo di cristologia, di pneumatologia, di soteriologia, con parole calibrate, ma spesse volte prive di potenza. Quella potenza che proviene da una vera, schietta e profonda relazione con Cristo, il nostro Dio fattosi carne. Quando sono invitato a predicare, non mi interesso di fare bella figura né di accontentare gli ascoltatori perché mi invitino ancora, ma ascolto ciò che lo Spirito Santo aveva da dirmi precedentemente nella mia lettura della parola di Dio. Nello scorrere la biografia di tanti uomini che hanno lasciato un segno nella storia dell'evangelismo, ho notato come avessero l'abitudine di predicare tantissime volte anche in una sola giornata, questo perché portavano decine e centinaia di volte lo stesso messaggio in varie zone. Nulla di male, perché una verità fa bene a chiunque, ma essere soddisfatti di aver detto una verità non basta. Ascoltando lo Spirito Santo, chi predica il Vangelo è messo maggiormente sotto sforzo di chi si limita a scaldare una minestra già preparata. Non sono poche le volte che, parlando a una comunità dei credenti, mi hanno ringraziato di aver risolto alcuni loro problemi. Ho ancora presente un conduttore di chiesa che, venendomi incontro, dopo aver ascoltato il mio messaggio, mi disse: «Ora, Ellero, vai a dire a quegli sposi che io non ti ho detto nulla in merito alla loro situazione matrimoniale». Altri mi chiesero se qualcuno mi avesse avvisato delle loro difficoltà. Ovviamente dissi di no, ma la loro espressione mostrava una certa incredulità. Ogni persona, come ogni comunità, ha bisogno di una specifica rivelazione o consolazione. E poiché Dio è l'unico a esserne a conoscenza, solo con la guida dello Spirito Santo è possibile consolare e edificare la Chiesa di Cristo. Se una comunità ha problemi di conduzione, noi siamo subito portati a trattare il tema degli anziani, mentre invece potrebbe avere bisogno dell'argomento relativo all'umiltà e servizio. Parlare da parte di Dio è veramente un atto di fede non facile da mettere in pratica. Ma se è vero che le vie di Dio non sono le nostre, allora non ci rimane che essere condotti solo dallo Spirito di Dio mediante la saggezza divina. Vi sono però altri aspetti nella predicazione. Dio ti incoraggia a parlare di un argomento. Senti il bisogno di farlo. Tutto parla di quell'argomento, ma tu decidi di non parlare. Passano i giorni. Ed ecco che viene invitato un altro predicatore a parlare. Quale sarà il soggetto del suo sermone? Esattamente quell'argomento che tu non hai voluto affrontare, e ti umili ancora una volta perché sei venuto meno al tuo compito. Il compito di annunciare il Vangelo è serio, molto serio, ma pochi ne sono consapevoli. Si interessano meticolosamente di annunciare le verità cristiane, cosa più che giusta perché un discorso sbagliato conduce gli ascoltatori lontani dal cristianesimo, ma non si rendono conto di essere molto tecnici, di un tecnicismo che il più delle volte arriva sì e no al cervello, ma non al cuore. Più osservo i cristiani del XXI secolo, più mi rendo conto di come non abbiano basi certe per costruire la loro vita e seguire adeguatamente Cristo. Ci sono gruppi cristiani che impongono ai loro seguaci delle regole attinenti al cristianesimo, come evangelizzare e frequentare le riunioni, ma sono inconsapevoli di formare una comunità obbediente a delle regole, piuttosto di una di credenti che seguono Cristo. Seguire una comunità non significa seguire automaticamente Cristo. Ogni comunità ha aspetti ecclesiologici propri e, a volte, contrastanti rispetto ad altre comunità. Per questo sono arrivato a comprendere che il principale compito di una comunità, e quindi dei conduttori, non è che tutti siano fedeli all'andamento della comunità, ma che seguano Cristo. Quando si dice che qualcuno si è allontanato dalla fede, in genere, si indica uno che non frequenta assiduamente la comunità della quale è membro, mentre invece potrebbe avere una fede solida in Cristo, ma frequentare anche altre comunità. Dobbiamo ricordare ogni giorno che la vita cristiana è una risposta d'amore all'amore di Dio, donato tramite Cristo. Il mio messaggio principale tende a questo. Invito e incoraggio tutte le persone ad avere un rapporto personale con Gesù Cristo, a smuovere il loro cammino puramente religioso pari a quello di tutti gli altri religiosi. Dopo mezzo secolo di vita cristiana, posso dire che molti protestanti tempo fa, paladini del vero cristianesimo, si sono secolarizzati e formalizzati. Cercano l'approvazione del mondo e dei religiosi, il potere e l'onore nel loro ambito, cercano di non perdere il benessere sociale, compiono buone opere spinti da una coscienza sensibile e poi il mondo vada come vada. Per loro, la salvezza delle anime è un'opzione. La mia predicazione consiste prima di tutto in un messaggio per la salvezza dei perduti e poi per la salvezza dei salvati. Per i perduti perché un'anima salvata vale più di tutto l'oro del mondo, la salvezza dei salvati, perché possano vivere quella vita cristiana abbondante promessa di Cristo Gesù. Se i cristiani non dimostrano la meravigliosa vita offerta da Cristo, come possono pretendere di vedere altri esseri strappati dal potere di Satana? Grazie sia a Dio, che nella sua misericordia lo Spirito Santo salva ancora sia i miserabili perduti, sia gli ingrati figli di Dio. Gennaio 2013. Ellero.